Porto anche tu. Radio 24 ti aspetta al Salone Nautico a Genova dal 30 settembre al 4 ottobre. Info su radio24.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera abbiamo il piacere di avere un ospite che è un'amica della nostra trasmissione ed è così, mi viene da presentarla come la Zadie Smith italiana. Hijaba Shego, benvenuta, bentornata. Grazie. La scrittrice italiana di origini somali, Hijaba Shego, che abbiamo già avuto ospite qualche tempo fa. Pecore Nere, Oltre Babilonia, La mia casa è dove sono alcuni dei suoi libri, ma soprattutto questo nuovo libro che adesso potete trovare già in libreria per giunta editore Adua. Hijaba, quindi un romanzo nuovo e tra l'altro un romanzo che parla di noi adesso, no? Raccontaci qualcosa di questo tuo libro. Adua è la storia di un padre e di una figlia, del loro rapporto difficile, ma visto in due diversi momenti temporali, diciamo. Zoppe, il padre di Adua, che attraversa la storia del colonialismo italiano, e invece Adua, che vediamo in due momenti storici, negli anni 70 e poi nel 2013. Lei appunto è venuta in Italia inseguendo il sogno del cinema, che poi non riesce purtroppo a compiere, anzi avrà un percorso accidentato, però vediamo anche un Adua che è sposata con un ragazzo richiedente asilo, che chiama un po' in modo un po' perfido Titanic, un nome terribile, lo so, però ha un significato, perché così chiamano, ahimè, molti somali della diaspora, quelli che sono venuti un po' prima, chiamano i richiedenti asilo. Infatti un ragazzo una volta mi ha detto: ricordate sempre, non a me, a tutti, ricordatevi sempre che io non sono morto, non mi potete chiamare con il nome di un film appunto dove sono morti tutti. Lui non sapeva della nave, sapeva del film di DiCaprio. Quindi è una storia che attraversa i tempi e fa capire, almeno questa era la mia intenzione, cosa succede ai corpi quando sono attraversati da situazioni difficili, appunto come colonialismo, razzismo, come le migrazioni moderne. È un romanzo, però, perché chiaramente è fiction, però direi che parla anche spesso dell'attualità, no? Intreccia questi due mondi che noi tendiamo a volte a confondere, no? Gli italiani nati qui ma di origini straniere, come puoi essere tu, e persone che arrivano adesso. Com'è questo rapporto? Un rapporto sia difficile sia anche fecondo, no? Perché c'è sempre uno scambio culturale in un certo senso. Io con Adua e Titanic soprattutto, ma anche con Adua e Zoppe, ho voluto dare carne a quelle che sono di solito le cifre, no? Noi vediamo, quando si parla di immigrazione, spesso ci sono le cifre, l'Istat o comunque purtroppo anche le cifre della gente che non ce la fa, che muore nel Mar Mediterraneo. Quindi io volevo un po' raccontare le persone dietro queste cifre, i sentimenti, anche che a volte le ambiguità, perché a volte no, c'è questa, quando si parla di immigrazione c'è una visione manichea, o tutti cattivi o tutti buoni, a seconda di chi parla. Invece ci sono le persone con tutta la loro complessità. Per esempio Adua è una donna che appunto la vediamo con i suoi sogni, ma la vediamo anche sconfitta, la vediamo a volte che tratta male il marito, a volte che cerca di superarlo in un certo senso, anche di colonizzarlo, lei che è in un certo senso stata colonizzata, però poi il marito non si fa, il ragazzo richiedente asilo non si fa mettere i piedi in testa. Quindi in un certo senso ho cercato di dare carne, perché i rapporti è chiaro che sono complicati e difficili, come tutto, no? Perché io dico sempre, se sono i rapporti sono complicati in una coppia, figurarci tra gli esseri umani, no? Allora dobbiamo imparare a conoscerci semplicemente, e soprattutto dobbiamo imparare a conoscere le nostre complessità, perché quando si dice italiani e migranti non significa niente, no? Come se fossero due squadre di calcio, quando gli italiani sono, quali italiani? I sardi, i romagnoli, i lombardi, poi soprattutto che classe sociale, upper class, middle class, lower class, dunque ci sono tante differenze tra gli italiani, poi che ne so, italiani di seconda generazione, e poi anche i migranti, dipende dalla nazionalità, dal sesso, appunto dalla classe sociale, dal titolo di studi, da tante cose, ci sono tante mille differenze. Quindi forse, sai, la letteratura letteratura aiuta in questo, a far percepire le differenze e anche il cammino comune che invece potremmo fare, il cammino verso quello che appunto si dice sempre, la nostra umanità, no? Il nostro restare umani, che è la cosa più importante. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB ghetto blues from the refugee camp. Questo libro sembra proprio di attualità. Io sono sempre un po' meravigliata quando mi dicono che il libro è di attualità, quando purtroppo, sai, non per te, ma lo stanno dicendo tantissime persone, ma sono praticamente 20 anni che il viaggio nel Mediterraneo è diventato questa cosa che vediamo, no? Il viaggio migratorio è diventato un percorso a ostacoli, o come dico io, un gioco dell'oca, con però dove se sbagli casella muori, no? Ed è, sono 20 anni e non è oggi. E quindi poi i rapporti coloniali, soprattutto lo sfruttamento postcoloniale dell'Africa, penso, che ne so, alla presa delle materie prime, alle multinazionali che rubano le proprie terre agli africani, non è cosa, ahimè, purtroppo di oggi. Quindi io semplicemente questo lavoro è un lavoro che in un certo senso avevo dentro da un bel po' di tempo, e quindi io l'ho scritto in 3 anni, ma non continuativi, cioè, però ecco, tante cose, siccome lavoro spesso con richiedenti asilo, ma il libro poi non parla solo di richiedenti asilo, parla di colonialismo, parla anche dei sogni, insomma, del cinematografo, insomma, ha una gestazione più lunga. E il problema è che spesso in Europa non ci siamo raccontate le storie, però le storie già ci sono, basta cercarle, ecco. Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Adua ha la tendenza a trattare Titanic come una potenza coloniale, no? Leggo un passo del tuo libro. Mi piaceva da buona schiavista vederlo prostrarsi ai miei piedi, chiedermi in cambio solo poche briciole d'amore. Da padrona magnanima gli gettavo quel po' che gli bastava per adorarmi. Tu che hai anche molta, come ci dicevi, esperienza con i rifugiati, i richiedenti asilo, c'è questa tendenza da parte degli italiani a avere un atteggiamento coloniale, anche quando vengono aiutate queste persone? Purtroppo a volte succede, purtroppo sì, però per quanto riguarda, secondo me, Adua è un personaggio comunque che ne ha subite di tutti i colori, no? E quindi il suo senso di rivalsa sul ragazzo, che poi non ci riesce, perché poi il ragazzo è uno forte e poi la loro relazione è invece paritaria, e nasce proprio dalla sofferenza che ha subito sul suo corpo, un corpo che è stato usato, che è stato proprio depredato appunto da questi cinematografari un po' loschi che ha incontrato incontrato nel cammino e che le hanno distrutto i sogni. Per quanto riguarda l'Italia, insomma, è chiaro che ci sono tanti tipi di atteggiamento, però io vedo, grazie a Dio, vedo tantissime persone che non hanno un atteggiamento colonialista quando aiutano, anzi aiutano perché vorrebbero costruire un'Italia migliore. Penso per esempio ai tanti volontari a Roma del Baobab, che stanno un luogo dove hanno transitato quasi 26.000 persone e dove sono stati sfamati da tantissime persone italiane, ma anche tanti ragazzi figli di migranti che si sono messi a lavorare per aiutare. E io penso che l'Europa però si dovrebbe dotare di leggi migliori, perché noi, io lo dico sempre, i miei genitori in questo paese sono venuti in aereo. Io mi ricordo appunto parte della famiglia che andava e veniva, l'ho prescritto su un articolo di Internazionale di mio fratello che faceva l'università vicino Praga, veniva da noi in Italia e poi se ne tornava in Somalia. Il viaggio era un viaggio circolare, adesso il viaggio è diventato questa cosa qui. Pensiamo soltanto che prima del 1989 chi era in Marocco, in Algeria, lavorava in Francia o in Italia e poi se ne tornava appunto in Marocco e in Algeria, c'erano gli stagionali. Invece adesso abbiamo un'Europa che ha tolto il diritto di viaggio, dove si può viaggiare soltanto per gli europei all'interno dell'Europa, però tutto il resto del mondo è fuori, quindi non c'è più la circolarità, essendoci più una circolarità, la gente è costretta a un viaggio che per forza deve essere migratorio, quando spesso non è detto che tutti i viaggi siano con quello scopo, no? E poi chiaramente c'è il diritto d'asilo, che è una cosa super importante, però poi facendogli fare quel viaggio atroce passando 5 frontiere, allora che diritto di asilo è? Perché non possiamo creare dei traghetti, degli aerei, un viaggio un po' più umano e soprattutto tolto alle mafie, perché questo in questo modo proliferano solo le mafie. Secondo me l'Europa e le sue paure in qualche modo stanno impedendo una riflessione reale su quello che sta succedendo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? A un certo punto viene citata la Germania e un personaggio dice: ci tengono ai diritti umani tedeschi, dopo l'olocausto fanno i buoni. Che sembra proprio una frase estrapolata dall'attualità che viviamo ora, no? Di questa Germania che ha aperto le frontiere. Che effetto ti fa dal tuo punto di vista, come ci raccontavi dei tuoi genitori venuti in Italia in seguito al colpo di stato di Siad Barre, questo atteggiamento della Germania che fa da apripista in questo momento a un'Europa solidale? Allora, chiaramente quella frase la dice un personaggio, non la dico io, e soprattutto un personaggio abbastanza losco, non dico chi. Sì, una frase molto cinica. Molto, molto, molto dura e cinica. No, l'ho messa perché io sono quasi 6 anni che vedo la gente andare in Germania, non è da oggi, cioè molti somali spesso mi parlavano della Germania, anche se poi non ci rimanevano, ci stavano qualche anno e poi andavano da altri, soprattutto nei paesi scandinavi. Quanto per quanto riguarda la Germania di oggi. Io non mi dimentico della crisi greca quando appunto parliamo di Germania, però la Germania è anche un grandissimo paese e con tantissime anime che noi conosciamo veramente poco, no? Appunto tutto viene ridotto a questa figura della cancelliera, quando poi ci sono i rilanti tedeschi che sono uno diverso dall'altro. Basta soltanto leggere la letteratura tedesca per capire che è un paese veramente, veramente complesso. Quello che è successo con i siriani, secondo me, è anche conquista dei siriani, uno si scorda sempre, però sono loro che hanno fatto la marcia appunto da Budapest verso il confine, e sono loro che dopo anni che sono stati vessati da una dittatura, da un gruppo terroristico forse tra i più atroci al mondo, tra appunto una guerra che li ha spazzati via, e io ne so qualcosa perché il mio paese di origine, la Somalia, ha vissuto 23 anni di guerra civile e adesso 2 anni di instabilità comunque, e quindi io capisco i siriani, capisco quanto hanno perso, e quando hai perso tutto in qualche modo non hai più nulla da perdere, soltanto da guadagnare, e secondo me sono stati soprattutto loro ad averci giustamente imposto la solidarietà, e non sempre ci stanno riuscendo, però hanno dentro di loro una forza e un'energia che è chiaro, l'Europa potrà fare solo bene questa energia, perché io penso che le attuali migrazioni, che sono sicuramente portate anche da tragedie come la guerra siriana, però sono anche per l'Europa un'opportunità, cioè la dovrebbero cogliere tutti quanti come un'opportunità invece di mettere dei muri, perché comunque un'Europa dove il calo demografico c'è e dove c'è sempre anche un po' tanta paura, e quindi forse potremmo imparare a non avere paura da chi l'apocalisse l'ha già vista. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Anche la Somalia di oggi appare in certi punti del tuo libro, quando l'amica di Adwa sta per tornare, no? In Somalia, dice: nessuno mi aveva detto che pace è di fatto una parola ambigua. Nel 1991 è scoppiata la guerra civile nel mio paese, nel 2013 sta scoppiando la pace. I people rabbis è diventata l'idea fissa di tutti i somali. Anche qui c'è uno sguardo su un paese che noi conosciamo poco in Italia, sui cambiamenti che stanno investendo anche quel paese, no? Com'è la Somalia di oggi? Perché vista dal tuo libro è un paese in trasformazione, di grandi opportunità, però anche appunto di grande business. Tu hai detto appunto la conosciamo poco, che in un certo senso è qui il problema, perché la Somalia è stata anche colonia italiana, no? E fino più o meno alla guerra civile l'influenza italiana era molto forte. Poi cosa è successo? Che finita la guerra civile l'Italia, proprio con l'inizio della guerra civile, l'Italia si è disinteressata a questo paese. Questo paese ha vissuto una guerra tremenda, però ha anche delle grandi risorse naturali, soprattutto petrolio, minerali, e gli altri se ne sono accorti. In un certo senso se ne accorti la Turchia, che è stata forse il primo paese a tornare in Somalia e ad aprire un'ambasciata. La visita di Erdogan, insomma, è stata abbastanza uno spartiacque, e non ti dico positivo, però insomma c'è stata, come ci sono stati appunto la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, quindi e c'è un grande movimento di paesi, perché comunque c'è un accaparramento di quelle risorse, cioè la gente sente l'odore del denaro comunque futuro, e quindi la Somalia ha vissuto 2 anni in cui la bolla economica, soprattutto delle case, era impazzita, cioè le case costavano veramente tanto, tutto era in fermento, molte persone della diaspora, gente che ha vissuto 30 anni all'estero è tornata in Somalia per aprire delle attività, ma anche giovanissimi, no? Io penso senso, c'è anche una comica ogni tanto che mette delle sue clip su Instagram, che è una delle donne più viste su Instagram, e fa vedere come si vive tra virgolette bene a Mogadiscio. Yo, what's up? This is how I'm living these days. This is called the Mudul. Starting out, I did not have a mission, and I just wanted to make my friends laugh. Now, my mission might be just showing that Mogadishu is just as normal as anywhere else in the world. I think a lot of people fret over coming to certain African countries that have experienced war. È chiaro che questo vivere bene per un'elite molto ristretta, perché poi la gran parte della popolazione, ahimè, vive da sfollata, vive senza soldi, vive le violenze quotidiane, e tra parentesi non dimentichiamo che c'è il terrorismo ancora. L'attacco condotto con un'autobomba a Mogadiscio in Somalia ha provocato la morte di almeno 6 persone. Il bilancio delle violentissime esplosioni davanti al Jazeera Hotel della capitale somala è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Abbiamo contato 6 vittime. Che colpisce sia la politica sia la gente comune. Quindi è un misto di contraddizione, come un po' quella canzone di Vasco Rossi, quando Vasco Rossi dice l'equilibrio sopra la follia. La Somalia ancora questo equilibrio sopra la follia, lo è stata durante la guerra civile e lo ha adesso in questa un po' strana transizione, dove però i problemi grossi, tipo le divisioni claniche e le armi che comunque riempiono il paese, sono rimaste lì. E in un certo senso c'è questo personaggio di Lul, che appunto, che è l'amica di Adwa, che è tornata in Somalia e vorrebbe che Adwa tornasse, no, anche lei, perché questo lo vedo nella diaspora, c'è molto movimento verso la Somalia, lo vedo in famiglia, cugine che sono andate, che rimangono 5-6 mesi, poi ritornano. Si cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se lì è già stata punita per ogni sua distrazione, debolezza, per ogni candida carezza, dato per non sentire l'amarezza. Sì, c'è molta voglia di ritorno in Somalia, c'è molta voglia di ricostruire, e io penso che nel futuro quella terra potrà dire la sua. Cioè, io penso che forse il momento veramente quello brutto sia finito, anche perché è durato 23 anni. Non so però se sarà una società giusta. Ecco, questo mi preoccupa molto, perché vedo tante disuguaglianze crescere, un paese che non aveva disuguaglianze e adesso ce ne ha, sono immense le disuguaglianze tra ricchi e poveri. Ecco, questo mi preoccupa molto. Quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Con te ne avevamo parlato, no? di quello che ci portiamo dietro come gusto, il fatto dalle nostre origini. Tu sei in Italia da sempre, però mi raccontavi un po' dei gusti che hai sentito in famiglia da piccola e che ancora pervadono un po' la tua memoria e anche la tua cucina, no? In che maniera vengono condizionati dal paese dove si cresce, si vive? E io penso sempre, quando penso alla Somalia, soprattutto penso a un paese della mia immaginazione, perché purtroppo sono tornata solo l'anno scorso, sono tornata nella Somalia del Nord. È chiaro che è qualcosa di molto diverso rispetto alla Somalia della pace assoluta che io ho conosciuto, e quindi quando penso alla Somalia penso alle spezie, soprattutto al cardamomo. Il cardamomo per me è la Somalia, quando lo vedo a Piazza Vittoria, insomma, è come vedere un pezzettino delle proprie radici, delle proprie origini. Come unire i due gusti, Italia e Somalia? In realtà Italia e Somalia si sono già unite dalla storia, nel senso che, per farti un esempio, quando c'è stata la partita Roma-Inghilterra, una ragazza di 20 anni su Twitter, di origine appunto somala, aveva scritto: io tifo Italia perché ci hanno regalato la pasta al forno. Questa cosa mi ha fatto molto ridere, perché in realtà molta della cucina somala è anche cucina italiana, perché appunto c'è la pasta. Forse eravamo insieme agli eritrei quelli che sapevano fare il cappuccino e la pasta, e mia mamma mi racconta sempre di questa pasticceria italiana che si chiama Azzanna, dove si facevano proprio i bignè, no? Quelli a Mogadiscio. Diciamo, a Mogadiscio, sì, a Mogadiscio. Quindi in realtà si erano unite molto prima, e per me è stato quasi naturale, no? Vedere a casa un giorno mangiare pasta asciutta, il giorno dopo mangiare il riso con la carne e le spezie, cioè faceva parte della nostra cucina, insomma. E mia mamma si era pure inventata un piatto con la polenta proprio valsugana, quella proprio la polenta, mm-hmm, insomma, nordica, però l'aveva condita con il pieno di carne che si usa per i sambusi, le samosa, no? Si univa tutte e due le cose. Quindi in realtà per me questa il gusto, poi chiaramente il gusto si arricchisce anche di tanti paesi che uno visita, però anche il gusto è sempre stato meticcio, ecco. Prima di chiudere ti volevo chiedere, come mai hai citato due canzoni che adesso ci dirai tu quali sono? Ho citato Stromae e Santana. Santana. Mm-hmm. Beh, Santana perché appunto quella frase parlava di cinema, in un certo senso, viveva appunto in un certo senso like a movie star. Sì, mi ricordava Adua. Mm-hmm. E invece l'altra canzone è quella che Stromae ha dedicato al padre, perché cioè, lui non l'ha mai conosciuto suo padre, perché appunto è morto nel genocidio in Ruanda, ed è una frase molto forte sulla paternità, e questo è anche un libro sulla paternità. La cucina somala è una delle più apprezzate del continente africano. Tre sono le influenze che hanno contribuito a creare l'identità culinaria della Somalia. La prima è quella indiana, riconoscibile nell'uso di spezie come il cumino e il cardamomo. La seconda è quella araba, attraverso un'altra spezia come lo zafferano. E la terza è quella italiana. La colonizzazione ha avuto i suoi effetti e i somali non rinunciano praticamente mai a un piatto di spaghetti o alla pasta in generale, a pranzo o a cena. La loro salsa di pomodoro è un po' più saporita della nostra a causa del maggior uso di erbe aromatiche, ma le differenze non sono molte. Gli alimenti di base della cucina somala, spaghetti a parte, sono riso, latte, la carne di pecora o di capra, il pesce. Fra i piatti tipici c'è il kalloon, piatto a base di tonno fresco e patate aromatizzati col cumino. Il sambusi, piatto d'origine indiana, conosciuto lungo tutta la costa orientale dell'Africa. Leggusi, un sugo fatto con verdure varie, pinoli, spinaci, olio di palma e peperoncino. Il riso con carne tritata e soffritto di cipolla e peperoncino. I somali sono soliti fare colazione con fegato di capra, di pecora o di dromedario, fritto con cipolle e pane. Fra i secondi, oltre il capretto arrosto, sono diffuse le ricette di pesce e i crostacei. Fra la frutta tipica ricordiamo la banana, la papaya e il mango. Tra i dolci, il buca, di semola e mandorle al miele. Allora, ci lasciamo con i Giabascego aspettandoti per la prossima pubblicazione di un nuovo libro, speriamo, o per comunque commentare con te anche l'attualità come abbiamo fatto in passato. Grazie per essere stata con noi e andate in libreria a comprare Adua di Giabascego, Giunti Editore, un bellissimo romanzo con molti spunti per capire anche la realtà di oggi. Grazie e Giaba, buona serata. Grazie a voi. E per questa sera è tutto, io vi do appuntamento sabato prossimo, sempre alle 23 sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore, con Indovina chi viene a cena. Alla prossima puntata quindi, e ricordate, i gusti come i tempi cambiano. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, ciao. You've got to give a little, that's the glory.